bene, tanto se non c'è nessun altro chiudo anch'io, dai. Se tra qualcuno magari mi trattengo, avanti se c'è qualcuno sul 10 che vuole entrare. Tutti amici di Bufuso, me ne vedi che ce ne sono. Sempre molti, entra. No, già sto facendo altro, ciao, ben sentito, facendo un po' di cibo doppio, e già vi sto ascoltando. Ehi, ciao Fabrizio, ciao, ben sentito, dai, KK, tutti molti sono, dai, non hanno voglia stasera, forse perché domenica si riposano, vabbè, io già sono bello sdraiato, mi sto facendo una chiacchierata qua, mi sto rilassando un po', dai, dopo tanta stanchezza di settimana, adesso mi rilasso un po'. Però siete cattivi, già, non è giusto. Sono in compagnia di Antonio Grode, Antonio, lo senti a Fabrizio? No, negativo. Ah, non ti sente, vabbè, dai. Vi siete salutati a vicenda lo stesso. Fabrizio, non ti sente, Antonio, che c'è un antenino di macchina. Siamo in attano, non mi sente. Ciao Antonio, ben sentito, ancora vivo sei. Ben sentito. Negativo il passaggio dell'amico, ho appena sentito un fruscio, un frusciato. Lo senti tu, Fabri? C'hanno che ha problemi grossi, che non mi sente, per carità. Negativo, tutto frusciato, ti sento, dai. E finirà. E allora Fabrizio, tutto bene? Tutto bene, lì. Oggi sta a essere in radio. Adesso però fra un po' finisco. Ma dai, sono in ascolto. Già ci sentiamo per basso uno di questi giorni, ci andiamo a festeggiare, dai, prima di Natale. Non ci si può uscire, non ci si può incontrare, non ci si può vedere. Ma infatti in un bar diverso, io vado in un mio bar, tu vai in un altro. Io ormai faccio così. Riprendi Gianni. Ehi, già stanno incontrando vesci con questo coronavirus. Non si può fare un cavolo, ma anche in famiglia si può stare, E noi proprio queste feste qua, come penso tutti, ne approfittavamo per stare tutti insieme, ma boh. Durante l'anno c'è chi deve fare una cosa e deve fare l'altra, poi il giorno di Capodanno almeno ci si trova tutti insieme, si fa un bel cenone, eccetera. Purtroppo poi va nuda. Tocca starsene in due in casa e buonanotte. Io, tu e le rose. Sì, così già, quest'anno non si fa niente, non si può fare niente, proprio zero. A parte non so nemmeno se lavoro, se non me ne ricordo. A Natale sì, la notte sono libero, ma saremo tutti a casa, tanto non si andrà da nessuna parte. Fabri, sta facendo con un rumore sottofondo, non so se te l'hanno detto. Ma aspetta che abbassi la giudo, ero in un'altra frequenza, stavo ascoltando, Ah, ciao Fabri. Ciao Walter, ben sentito. Claudio, ben sentito. Ciao, mi sono qua, ma con il tuo vabbè, è finita direi con la radio, Roberto. No, ci sta lavorando, sta aspettando un integrato e devo fare delle prove. Mi è mancata la ricezione, la trasmissione, riesco a mandarla in trasmissione dandogli un segnale, ma non va bene, c'è qualche problema. E dove sto andando a sostituire, ho notato che sono già stati sostituiti quei componenti, quindi quel problema lo deve già aver dato. Da ogni volta che vado a fare dei controlli su alcune parti di circuiti, che ho dovuto smantellare la radio, ce l'ho qua aperta. Trovo che sono stati sostituiti che componenti, proprio ogni volta ci sbatto la testa su una parte, cacchio, sostituito, quindi praticamente da trovare problemi, quindi praticamente mi è mancata ricezione, tutto quanto, non sta arrivando un segnale in commutazione, spero che sia quello integrato, non lo so se l'ho ordinato, ma è arrivato un FET per l'VHF, perché lì era sorda, e invece adesso non posso nemmeno piattarlo, finché non riesco a mettere a posto questa roba, non so se si può mettere a posto, è un macello, per i problemi. Giunga, oramai, lampade tutto. Vabbè, dai, già riesce a tornare in piedi, non è affetta lui. E così l'ho presa, va bene. Allora, da una parte, così, non so neanche cosa dirti. Così era e così, infatti gli ho scritto il foglietto, sarà Fabrizio, c'è questa cosa, praticamente non esce di modulazione e poi è sorda gra grabba, quindi. Va bene, dai, spero che metto i piedi, con calma, ciao, un saluto, ciao Antonio Bombo, anche dai, io sto uscendo a portare il cane, ciao a tutti. Sì, no. Buonasera. Buonasera anche a te, Bombolo, buonasera. No, con la neve qui due problemi. Uno l'avevo trovato riaperto un pezzo. Poi mentre ci stavo lavorando, non lo so, mi è mancata ricezione, tra l'altro è completamente morta. Sto arrivando un integrato che non fa la commutazione. Adesso spegniamo, è tutto SMD, poi devi sostituire con aria calda, smontare, fare i controlli, no? Se si può adesso ci faccio un altro paio di ore te sopra, non arrivano questi componenti, se no si chiude la fanna. Che devo fare roba. Va bene, avanti Bombolo. Papà Fabri, capitano, tu sei dente, o sei dente un bere o... Sei, no che c'è tutta a fondo scala, sì. Ho anche attenuato per vedere quanto arrivi, ma è una cosa allucinante. O forse perché siamo vicini, beh. Non lo so, io sono sempre in solite condizioni, sono la stella sul traliccio, a parte che oggi ho visto che è caduto un radiale, sicuramente questi cavolo di, come si chiamano, non corvi, questi storni, che si stanno, hanno preso l'antenna con per andare a dormire, probabilmente hanno spaccato, l'hanno inclinata, adesso quando l'abbasserò lo metto a posto. Per il resto niente, tornando con la solita radio, con i batteri della radio, punto e basta. Vabbè, sono io che ho cambiato posizione, cosa vuoi che ti dica? Sei a fondo, a fondo, a fondo proprio. Cappa, non so quanto ti sto arrivando io, ma sei proprio a fondo qua. Ah, 9.30, qua c'è 9.30. Cappa, eppure qua, pure qua, c'è una cosa allucinante, sì. O forse perché vede la tua antenna, cosa ne so? No, vabbè, ma io ci arrivo dovunque, bene o male arrivo benino, anche perché la posizione, come l'antenna, un po' tutto, sono sempre arrivato discretamente un po' da tutte le parti, niente di particolare, sempre discretamente. Ma prima tutti stavo arrivando, già. A me lo stesso, a me arrivi fondo scala lo stesso, ma sei sempre arrivato qua forte, bene. Fabrizio ha una buona posizione, in tu. Capa, ma evidentemente c'ho il corridoio, c'ho già. C'ho il corridoio aperto sicuramente. È a fondo a fondo proprio, tocca di bitocca. E vuol dire che siamo talmente vicini che è così. La vettiglia. Fabrizio è arrivato sempre bene, dai. Capa, Antonio Grodino, avanti. Antonio Grodde, vero. C'era Grodde, c'era. Deve essere andato in tana. Grodino! Cosa devo dire io allora, Antonio Bombolo? 960 Fabrizio qua, è vicino a te, mio, come tu? Ehi, non assai, no? Sicuramente, no, ma sicuramente più vicino a me che... Cioè, cavolo, qua... Non l'avevo mai visto, la verità, perché prima era il segnale della Telor che me lo ricordavo, ma qua, cazzo, qua era una cosa spaventosa. È più forte di... cioè, è l'altro che è più forte di tutti. Vabbè, perché ce l'ho qua, dai, cosa vuoi che ti dica? Perché sicuramente in linea d'aria ci vediamo, capito? Già ti vede lui, non ti preoccupare, ma non è molto distante da te. Avanti, che deve entrare, ho sentito un segnale. Ma il cane ha già portato là, Claudio. Ma come sto mettendo, Gianni? Mi sto mettendo. Ho sentito Fabrizio, mi stavo andando due chiacchiere con lui. La burda è stata a pelare l'SMD Fabrizio. Mamma mia, mi ricordo a Massimiliano, la volta l'avevo portato il milione. Alla fine l'avevamo versato e avevo preso il 1200, una rottura di balle, non so bene cosa è ricco per me un attimino. Eia, no, il problema qual è? Che quando io smonto, isolo il ramo, mi controllo quella parte lì, poi per isolare il ramo devi togliere i componenti, rischi di perderli perché sono delle pulci, quindi devi mettere lì in un panno bianco cercando di non perderlo, poi isoli il ramo, poi vedi un componente che ha problemi, lo ordini e ci vuole un mese per arrivare, poi lo metti quella e devi proseguire la riparazione, cioè non esci più, non ne faccio per quello che mi dici. Oltre che essere molto complicata, perché no, cioè non è come lì, segui la pista, lì devi avere la radio. radiografia davanti, andare qui col contatto, quella lì, vai alla cieca lavori, e quindi diventa, tu considera che questa, ho fatto la prima riparazione, ho trovato perché era sorda, e c'è un componente, mi è arrivato, ce li ho qua, mi sono arrivati, stavo cercando il motivo perché non usciva il radio, mi ho dovuto studiare tutto perché non la conoscevo, ho capito più o meno, ho trovato delle tensioni che non andavano bene, quindi lì probabilmente ce n'era, faccio altre prove, adesso non trasmette e non riceve, cioè va in trasmissione, riceve ma non dà potenza, perché c'è un integrato che lì c'è una porta logica morta, quella l'ho già trovata, adesso l'ho ordinato, e a vedere se sto cambiando quello, non bisogna proseguire a continuare, e quella è stata una riparazione, chi l'ha fatta? Ha lavorato bene, per carità, non posso dire niente, proprio lavorato bene, però c'erano dei componenti che hanno già sostituito, e io quando vado a cercarmi alcune cose, a ragionare su quella in la radio, vado a cercarmi alcuni segnali lì, tac, e vedo che è stato sostituito, quindi quella radio, quei problemi che ha fatto, li ha girati altre volte, sicuramente, quello che però è già stata riparata, bene, chi ha messo le mani le ha messe bene, non ci hanno mica zappato, per dire, quindi ho il dubbio che anche quel problema che ha fatto a me, che mentre la stavo riparando, problemi che quella radio probabilmente poi ci ha aver dato, perché poi la radio per carità non è così, è buona, dentro era, qualche riparazione è stata fatta, e poi è stata tentata anche qualche riparazione, perché ho visto dei segni quando hanno smontato le schede, poi l'hanno mollata, quella lo stesso, sempre gente che sapeva mettersi le mani però, Sì, uno non è di qua, è di fuori, io praticamente con la radio l'ho presa così, diciamo così, oh Fabri, infatti quando Roberto mi ha detto, sto cercando, mi ha detto ce l'hai un buio, ho detto va, io ne ho una, se ti accontenti che te la fai controllare, ti dico cosa c'è da fare, quello che praticamente io ho riscontrato nel provarla, non nell'aprirla, nel provarla, e vedi un po', io l'ho scritto, infatti, non so se il foglietto che l'aveva dato, siete sorda in V, non esce di modulazione in U, eroga la potenza, vedevo l'amperaggio che saliva, però chiaramente non ne potevo provare altro, perché l'ho sempre la parte, dentro la scatola mia, nuova, la vita è in buonissime condizioni, ho dato tutto, dentro la scatola. Arrangiati, dopo riesce a farla mettere a posto a Fabrizio e ci stai lavorando. Sì, chi ce l'aveva sicuramente ha tentato, perché uno così come te, è uno che le piace molto l'elettronica, la rimatore di continente, quindi capito Fabrizio, sicuramente ci avrà messo le mani o lui o chi per lui, però gente che ha saputo lavorare, perché infatti me l'ha detto guarda, ne ho una, se ti serve te la mando, tieni, te la fai, perché avevamo fatto i riscambi, delle cose così, roba male, ma avevo messa lì da una parte, ogni tanto l'accendevo, perché riceveva anche bene, in U però, in V non si intendeva nulla, in U riceveva, però non usciva le radio, qui va tenevo come ricevitore sui punti, capito? Vabbè, vai, in bocca al lupo, Fabri, piano piano, senza brezza già gliela metti a posto. Vado, vado a portare il mio grande Filippone, dai. Ciao Fabri, a presto, Gianni anche a te, riprendete, ci sentiamo, ciao. Di nuovo, ciao, buona passeggiata, dai, avanti Fabri. Riprendo io, vai. Adesso diamo un altro sguardino, questo si riduce qua, presso altri problemi, la chiudo e via. Va bene, questa cosa dei sementi, non si può lavorare, non si può sostituire un componente, poi devi andare a controllare perché si fa così, perché se parli tu uno probabilmente c'è una catena a sostituire, anche puoi stare un mese a aspettare, poi un altro, poi per fare le prove, alla fine ci va, non si possono fare più queste radio, finché sono radio tipo questi vecchi, ecco, di saldi fai, trovi un po' tutti i componenti, se ti manca l'ordine in due giorni vai a Fusaro, trovi più o meno tutto, pare che c'è un sacco di ricambi ancora, però comunque va bene, va bene, vediamo se c'è Grodde, avanti Grodde. No, vi sto ascoltando, non posso intervenire, sono qua che vi ascolto piacevolmente. Va bene. E tu già tutto a posto? Sì, grazie a Dio, sì Fabri, tutto a posto. Niente, mi sono fatto fino a l'impianto in macchina, mi ha preso male, mi sono messo il baracchino in macchina e oggi lo stavo collaudando. Gli ho messo l'antenna grande però, perché con le antenne piccole non ho trovato una performante. Sempre la Turbo 2001 è quella più performante, sono salita a Usilo, ho chiesto segnali a destra e a manca, tutti mi hanno dato dei buoni segnali, senza amplificatore, senza nulla. E va bene così, io ho messo la magnetica perché la macchina nuova non voglio bucare, e mi dà fastidio bucare la cappotta, quindi io ho messo la magnetica, ma rende bene. Non si può bucare la cappotta, poi io le macchine le cambio di 4 anni, 4 anni, dai, minchia, bucare quelle macchine è un peccato perché poi non la vendi più. Ma infatti, ma poi anche per me l'estetica non mi piace. Invece quando ho finito di modulare prendo l'antenna, la piego, la metto dentro, la calamita la metto nel cofano e fatto il gioco, capito? Sì, ma è così. Io considero che sull'altra macchina, la XF, c'avevo la base magnetica, avevo l'impianto, avevo fatto. Su questa avevo le HF, le UHF, avevo tutte le antenne, mai usate in HF, pochissime volte in UHF un po' sì. E su questa non ho mai piazzato niente, per quello che si usa, non ne vale la pena, questa base magnetica, poi la facevo la base magnetica nel cofano, non fa, non ho mai, qui non ho proprio mai piazzato niente, infatti se tutto va bene un altro 6 mesi, un annetto, cambio la macchina, immaginate un po' se mi metto a, oh, lasciamo perdere, poi sbagli poco, gli fai un danno che mi inizi a piangere per 3 giorni. Scusa. Allora io nella Opel l'avevo fatto il buco al centro cappotta, rendeva tantissimo. Un giorno dovevo andare alla LAS in Viale Umberto a fare delle analisi e mi sono dimenticato che avevo l'antenna. Come ho girato per metterla in parcheggio la macchina lì dove ci sono gli alberi, ha toccato il ramo di un albero e ha detto tu mi aggoi. Mi sono girato, sono uscito fuori e c'era l'antenna, praticamente la base che era entrata all'interno della cappotta. E cosa era successo? Che si era arrugginita tutta attorno. Io ti parlo però che ce l'avevo 12 anni con l'antenna sopra la cappotta. Quando mi è successo ho fatto una cosa, ho preso e per camuffare ho messo, è presente quei tappi che si mettono per quando togli i rubinetti eccetera eccetera, quelli cromati, ho messo uno di quelli, l'ho riempito tutto quanto di silicone sotto, sopra, l'ho fatto bene, si vedeva pochissimo, proprio si notava, e poi l'ho rifatto il buco davanti dove c'era la plafoniera e rendeva lo stesso tanto che rendeva il centro cappotta. E tante volte si pensa magari di fare qualcosa con tutto che la lamiera della Opel è un bel grossa, ma grossa però molto spessa, quelle delle Fiat sono più leggere. Vabbè. Avanti. Ascolta, no, tu avevi per caso il cavetto Kenwood, quello per settare le rare delle UHF, i portatili? Beh, c'è un po' di tutto, non mi ricordo più nemmeno cosa c'è, ne ho due scatole di cavi, programmazioni, ma sono tutti su e non so nemmeno dove sono. Poi io ce l'ho il cavetto, però non mi ricordavo se oltre al software per settare la radio ci volesse anche il software per far riconoscere dalla presa USB il cavetto. Il cavo sì, sono prolifiche quei chip che vengono usati nei convertitori lì sotto, perché prima venivano usate le porte seriali, adesso invece usi dalla radio e vai direttamente sulla porta USB, quindi devi avere il convertitorino che sono quelle prolifiche, e oggi le trovi o già pronte o comunque la devi riconoscere, ma molti stanno avendo problemi con i driver, per tutta roba cinesia è un problema. E quello infatti, siccome il cavo ce l'ho, però non ho il software della radio, o meglio l'ho scaricato, ma non riesco a trovare il software del cavetto, quindi non lo riconosce, non mi riconosce la connessione fra computer e radio, sono Baofeng, capito? Teoricamente dovresti, quando lo metti lo devi fare una ricerca e dovrebbe trovarlo da solo, se non li trovi devi andare su controlli, vedere un po', giocare un po', cercare di farlo riconoscere. Ma non va bene il cavolerà Kenwood per i cosi e per i buffet? Ma il cavo è lo stesso, non, da una parte USB e dall'altra parte c'ha due jack, quello piccolo e quello normale. Ma non lo so, dovrei vedere gli schemi, non sono tutti uguali, non ti fidare, non sono tutti uguali, bisognerebbe vedere un attimino come sono fatti. Non ti fidare, non lo so, così e non lo so, non ho molta esperienza, anzi devo aggiornare gli schemi, ne sono capitati diversi, e alcuni così e sono diversi, quindi non è detto. Adesso provo a vedere se riesco a trovare il software, vabbè, continuate, ciao. Vabbè. Un po' di cercati, tu quando lo metti, che vai in risorse del computer e devi trovare, quando lo metti, stacchi e riattacchi la porta, tu lo vedi, non devi avere il punto di domanda, se il punto di domanda devi dargli i driver giusti, e se è giusto, tu quando lo togli e lo metti, vedi che magari dice COM 15, COM, lo togli e va via la COM 15, un esempio, sono solo le portate là, quando tu lo inserisci ti dà il numero della COM e vedi che ha un unico colore, tutto uguale agli altri, quando gli mancano i driver ti dice che oppure non lo vede per niente, allora perché non è come che non stai facendo, ma in linea di massima tu vedrai un punto di domanda, a quel punto gli devi dare i driver, se tu lo vedi a quel punto il cavetto sta funzionando, a quel punto è un problema di riconoscimento della radio, perché non la sta riconoscendo non lo so, però il cavo sei sicuro, prima devi accertarti di fare questa cosa per accertarti che il cavo funzioni. Adesso ci provo un attimo. Antonio, avanti. Bombolino, bomboletto, sì. Antonio deve essere sceso giù. Kappa. Ehi, Antonio è disperato che c'ha questo Mofeng e deve sintonizzare cosa, ma non lascia fare nessuno che vi rubate, boh. Kappa. Ma tu ce l'hai il cavetto Fabri per fare questo Mofeng? C'è un po' tutto, ne ho 4-5 questi Mofeng, ce li ho tutti programmati, li ho programmati a suo tempo, non mi ricordo nemmeno, il problema è fare i file che ci vuole un bel tempo, se trovo i file pronti a buttarli dentro è semplice, bisogna vedere se la radio riconosce, ne ho 3 diverse qua, ce ne ho 3 buttate Mofeng qua, 1, 2, 3, poi ne ho altre 2 da qualche parte, e sono una diversa, un modello diverso dall'altra, con alcune più semplice, e con alcune non lo leggevo, non mi ricordo cosa avevo fatto, boh, non lo so. Poi per esempio lo diceva lui, c'è anche il cavo che non va bene, che è sempre uguale, ma per una radio che va in digitale, quella lì che devi dare il colore, se non mi ricordo, avevo fatto lì lo stesso, era un problema programmarla per dare il colore, le stanze, mamma mia, non so nemmeno cosa, da che parte iniziare, comprata, ho fatto un paio di prove, l'ho vista l'altro giorno in soffitta, buttata, l'ho messa a caricare, in soffitta nella cadetta, cioè l'ho messa a caricare, oggi stesso l'ho vista quando sono salito, e quella lo stesso era tutta programmata, però lì parliamo di qualcosa di già più che a studiarci sopra. E quello lo stesso, c'è il cavo che è uguale, ma non va bene quel cavo, infatti è un cavo particolare per quella radio, non è lo stesso cavo del Benfeng, il cavo del Benfeng è diverso. Adesso prendo un cavo qua, se c'è lo del Benfeng, e provo a prendere una radio a vedere se la legge, vediamo se trovo il programma, aspetta, chiudiamo qua, che stavo facendo un po' di digitale CW, chiudiamo questo, lo chiudiamo, adesso guardo, aspetta e guardo se c'è un cavo qua, se su, guarda, addirittura ci vedo anche i cavi per la programmazione dei punti radio, quello di Motorola, aspetta che guardo. Se no lo fa con calma, tranquillo. Antonio, ci sei? Ehi, mi stavate chiamando? Ehi, no, ne stavo parlando a Fabrizio del Mofeng, mi ha chiesto se c'è il cavetto, che sta controllando. Kappa. Ma il fatto che una volta che lo programmi, come fai a vedere le frequenze? No, il coso lo devi sapere con quell'affare che c'è là. Se sai che devi andare lì, devi andare lì. Con quel cazzo di coso che gira per il canale. Se ci riuscite, se no ce l'ho qua imbarrato. Cioè, non me ne posso nulla a me. Ehi, vabbè. Magari te lo guarda Fabrizio se lo sa fare, se... Perché ha detto che ci vuole entrare? Per la ginocchia che non me ne posso nulla, cioè in poche parole no, è come che non abbi niente. Oi. No, sono giù che stavo facendo della roba e un mese dritto sono entrato. Non lo puoi usare così, cosa te ne vai? Se si può sintonizzare con gli altri apparecchi, ma quando è così è un casino. Ma non è a display quello? Radio Gucci, no, no, dove cazzo ne vai? Cioè, non te ne fai niente. Ma che modello è? Non è a display? No, è quello... BF888S. BF88S. Ehi, K. Donna. BF sta per Baofeng. BF Baofeng. BF Baofeng. Però un attimino che modello è. Adesso se io voglio salvarsi un attimino dopo. Sento il capo. Sono curioso di rivedere anche i miei che programmi usavo. Non mi ricordo più niente. Per cui avevo cambiato anche il computer dopo l'incendio. E quindi probabilmente non sono nemmeno installato. Adesso guarda. Se vuoi su cosa... Su Message ti mando la foto, ti mando. No, l'ho già trovato. E quello con la scatola rossa. Sì, c'è due tattini rossi. Sì. Sì, che cos'è? Costano anche due Lilith, mi costano anche poco su eBay. Sai quanti ne ho? Che sei, Antonio Grotte, sì. Ciao Bomboli, non pensavo mi sentissi perché sto trasmettendo con l'antenna piccola. Ne ho 50 di quelle lì. Ci tengo, non sono più avanti dolce a me. Qua stai arrivando a bomba, però io ho l'antenna piccola, capito? Le avevo prese per un servizio di lavoro, mai usate, e sono buttate da una parte, 50. E adesso cosa te ne fate? Le vi? Il minimo, ma ti ripeto, le vendo a 3 cubarazzoni. Ti ripeto, alcune non sono neanche aperte, anzi la maggior parte neanche aperte, proprio in celofanate con scatola nuova. Ma con che antenna stai uscendo? E qua mi arrivi abbastanza bene, con che antenna stai uscendo? Ho una veicolare dentro casa. E già va bene, e gli auguri che ti arriva a bomba. Ma la bomba stai arrivando tu a bomba. Quasi 9.30, figurati. Dai, riprendete che sono in ascolto. Raga, vabbè, la musica giamba, trovatela sul tetto, già non credo che giamba la musica. Ok, dai. Aspetta, dopo scendo un attimino giù. Continuo a fare quella cosa e sto arrivando, ok. Riprendi già. Aspetta un attimino, ma questi sono PMR comunque. Negativo, PMR è la frequenza, secondo cosa gli metti, gli puoi mettere PMR o LPD. La frequenza è 466, no, cioè, comunque hanno un range di frequenza che prendono sia PMR che PLD. Sì, 400-470, devi fare un cavo, sui bici sono a 16 euro. Ma negativo, guarda che sono anche VHF, UHF e VHF sono. Questi dice di no qua, mi sembra strano. No, il FB, anzi BF 888S hanno due frequenze. Poi non lo dici, tutti quanti dice 400-470. Ma quello lì, sulle specifiche della radio la stai guardando? Sì, adesso qua su chi la vende dice così, quindi se è scritto così. No, ma c'è un modello che però non è questo qua, non è questa sigla qua, mi sembra che sia l'888S, 888E, a seconda della sigla, guardalo bene perché io so che sono due vie. Sì, quello forse è quello con 3-8, questo è 2-8. No, allora è diverso, questo qua è BF888S. Questo c'ha solo 2-8 ed è 470. E costa anche una fesseria, li trovi a 15 euro, 16 euro. La copia li trovi a 32 euro, 34 euro, 4 addirittura, 4 Baofeng a 34 euro. Oh, così bene. No, ma io, attenzione che quello lì non sia anche il 3 watt, perché questi sono 5 e sono doppia, due vie. No, addirittura questo è 4 per Baofeng, BF, 8, 8, 8, 7, però parla sempre di 400 e 470. E vendono 4 a 34 hanno cada uno, però qua dice, questi sono cada uno, questi sono 8, 8, anche se ci dipende da chi li prende. 4 più, vabbè, comunque non vengono molto da. Cappa, però guarda se hanno 5 watt o 3. Questo è il modello, non lo so, aspetta che guarda cosa ti dici. 470, consumo, circolatore, non li sta dando, forse non li danno. No, quelli che sto dicendo io sono due vie, fanno VHF, 5 watt. modello è così. Comunque, siccome mi sto allontanando, se lo trovi, ma più che altro mi ripeto, il tabletto ce l'ho, se trovi il driver, fammi un SMS o un coso, un WhatsApp. Niente, nel suo computer devi cercarlo, se non sei lì vai in qualche sito e cerchi di scaricare il driver, non il software driver, ma guarda un attimino se prima c'è il cavo, se ti sta riconoscendo il cavo sul computer, quella è la prima cosa che vedi, guarda che non è lo stesso il cavo sicuramente. Il cavo lo sta riconoscendo, però ti ripeto, rimane col punto di domanda e se carica mi carica un driver che non è quello, non riesce a collegarsi a prescindere. Comunque adesso ci riprovo, dai. Perfetto, punto di domanda, cioè, non hai driver, vai a cercare i driver giusti, cerchi in rete e dovresti tecnicamente aprire e leggere la sigla di quella specie di prolific, perché se magari sono di quelli cloni, e andare in questi cinesi e trovare i driver di questi cloni, se no non ne capi piede, oppure trovate il dischetto di quel cavo. E quello è, ma secondo come me lo ricompro, mi sembra che questi 8 euro su Amazon, adesso vedo, dai, ciao. Già. Ti ho mandato la foto, Fabri. Per farti vedere la scatola. No, ma l'ho trovato, quello è il BF88S, no? BF88S, sì, è quello lì. VHF, VHF. L'unica cagata è che è un endecametrico, nel senso che non puoi selezionare le frequenze se non tramite il computer, dopodiché c'hai 16 canali. Sì. L'hanno buccio, frequenze strane l'hanno buccio. Sì, fra l'altro chi le compra non sa che gli hanno messo non i canali PMR europei, ma quelli cinesi o di dove sono, quindi teoricamente, a parte che non si possono usare i PMR con 5 watt d'uscita, ma a prescindere hanno frequenze strane impostate. Sì, sono frequenze strane che non si potrebbero usare. Oltre al fatto che molti non sanno che quella lì è una radio, comunque è un apparato radioamatoriale, quindi a prescindere non si potrebbe usare. Cappa, i cinesi li trattano in cappannone, va bene. Ascolta, ma cosa c'hai? A 2.8 o 3.8 è quello che c'è scritto lì? Ti ho mandato la fotografia, ti ho mandato, dove cavolo l'ho lasciato adesso? Giù. Ti ho mandato la fotografia su Illumi, no, BF88S, quello con la scatola rossa. Sì, l'ho visto. Chi è che vuole entrare? Fare in banda laterale, Ghiccio. Tu vorresti caricare i canali PMR? Quelli canali PMR vorrei caricare. Quelli dove parliamo noi, dai, in genere. Ho capito. Aspettate un minuto, intanto vado a vedere se c'è il cavo e se lo riconosco il computer. Un attimo. Ok, non c'è problema. Magari. Tanto io sto chiudendo, dai, devo andare a portare il cane. Ciao Antonio, ciao Fabrizio, ciao Grode, ciao a tutti gli amici che sono in ascolto. Doppio run QRT esecutivo. Ciao ciao. Bye. Ciao, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti Antonio. Ma così riusciamo a sintonizzarlo, chi ce l'ho dratto, e cosa devo fare? È un peccato lasciarlo così, cavolo. Mi dispiace pure perché l'ho comprato e non lo sto utilizzando, cosa me ne vuoi, non capito. Perché tutto le frequenze sono sballate. Antonio Bombolo. Via! È entrato, cazzo con l'intori, minchia. Già lo so già. Cavolo, l'intori, bello freddo, no, io già c'ho ginocchio in casa, che peccato. Sì, Antonio, come fa? Perché la finestra sono 24 gradi qua. Non si respira, sotto non si fa proprio le spalle. Più le radio accese, anche se non ce ne sono molte, ma comunque. Sempre caldo c'è qua. Ah, anche qua mio, ha già acceso la super stufa, oddio. Inocchio, attendere un burrito della cucina, è peccato da voi. Gappa, tutti chiusi, no? No, c'era Fabrizio, c'era. E adesso sono io. Ah, ma faccio durante le visioni, scendo giù e scendo a... Ma dammi due secondi che spengo il televisore che c'è acceso. Io, va bene, già mi piace andare a portare il cane anche lui. Vabbè. Giulia, eccomi qua, arrivato. Io, aspetta che mi metto il mio pigiamino adesso, un secondo solo, come un minuto. E cappa, fai. Io non c'ho nulla. Cioè, quando c'è freddo così, arrivo a sabato, siamo usciti stamattina, mi appare qualche commissione, immagino io. Quando arrivo sabato, esco, poi c'è freddo, non è gatto avanti. Se c'era stato caldo me ne è andato al mare, ma va, cosa fai? Io non ho visto stamattina, come in radio, io, tu, Roberto, Gianni, e dove andare? No, io sono tutto il giorno a casa, no. Sono io, esco solo la mattina. Io mi alzo alle 8, vado a prendermi le sigarette, do un'occhiata al giornale, mi prendo un caffè e poi rientro, un'oretta perché sono fuori, neanche. Rientro, porto il cane, una volta sistemato il cane, guarda, mi sono messo in tutta, come mi hai sentito stamattina. Ero tutto il giorno, sono tutto il giorno a casa, niente, TV, radio, TV, TV e radio, boh. Io sto per ammazzare il tempo, sono sempre qua in stanza, fortunatamente c'ho la mia stanza, c'è la televisione, il computer, insomma, già non mi annoio, però come si andrà a essere pesante a fare sempre le stesse cose, sono già 2 anni che faccio le stesse cose, mi sono già rotto le balle, capito? Chi è che sta chiamando? Ma lo senti, Clara? No, non lo so, non lo sento. Ma... Intanto sento questo segnale, sento, ma non capisco chi sia. C'è qualcuno vicino a te, io non sento niente qua. 10 Max. Sì, senti. Sento questo segnale, non è che arrivi fortissimo. Sembra in banda laterale, sembra. Fatemi un tanto io. Controllo voi. K, sei fuori frequenza, io non ti sento, non lo so, non lo so, mi arriva questo cavolo di segnale ma non capisco, non lo capisco, l'avessi capito ma non capisco, fuori frequenza. Quanto io non sento niente, con tutta la mia buona volontà, se non è qualcuno vicino a casa tua, qualche portatilino o qualcosa, non lo so, io non intendo. E se non intendo io vuol dire che non intendo. E K, sicuramente qualcuno con qualche cosa che no, che qua non arriva, no, non va, no. Ho provato in FM, ho provato il coso. E spostato in frequenza, purtroppo. C'è un apparecchio che non posso andare, non ne ho caliper, se no avrei provato a centrarlo per vedere un po'. Se ero riuscito a sentirlo, ma non intendo, cioè ritengo sto wa. Con tutta la mia buona volontà, ma qua arrivi male. Ok, qua. E cosa vuoi che ti dica? E lui è Gianni, è andato a portare il cane. È andato a rigarugare. Portava il portatile, già lo sentivamo. Sì, ma infatti io avrei portato il cane. Ti vuoi quei 10 minuti, stacchi un po' dalla radio. Ho voluto me, portati PMR. No, che nave, tutti i tuoi, non siamo anche più entrando in PMR. Avanti con un buon liscio. Cosa ne fa? Bah, il tuo chiacchiere qua. E ne avanza, no, io vado al soltano e faccio una passeggiatina, una salita, una discesa e poi basta. Se c'è molto freddo me ne rientro subito, se no mi trattengo un po' giù, ma fumo una sigaretta. Ma c'è troppo lintore, capito? Siccome io vado al bagno, verso le 5, 5 e mezzo alle 6, capito? Mi sono fatto il bagno, tagliato i capelli, barba, tutto. Ho paura di rimanere un po' fuori, sia che prendo freddo. Ecco, purtroppo io non c'ero il bagno, c'ho la doccia qua. No, guarda, io ho fatto, diciamo, i lavori, messo tutte le vetrine nuove, tutte le cose che ci vuole, la ricetta della bagna non mi ha toccato, perché è nuovo, anche perché non c'è abituato la vasca, io c'ho la vasca, no. mattino, una cosa, ti rilasci, la luce in piedi a me non è che mi vada molto bene. Non so, sono messo tutto a posto, e ci ho gli rubinetti, stavo iniziando a dare segnali di vecchiaia, e quindi sono fra carboni, prima che chiudesse, si è chiuso il carbone, sto puttana. In Napoli, e mi ero attimato tutta la libreria, vasca, water, lavandino, tutto attracco baratto, roba buona, capito? Mi ero tutti cambiati, però non è poco di bagno perché è nuovo, va bene così, poi la vasca che ho io non è in ferro, è in porcellana, capito? Non si rovina quella, è in porcellana, io sia la vasca, sia la lavandino della cucina, doppia vaschetta, tutto il porcellana. Cioè. Guarda, l'altro che vende è gli elettrodomestici, gli elettrodomestici intendo a me, che è molto, si arrangia anche molto con i prezzi, lì via ferme. Mi trovo benissimo. Carbone io. È sempre stato un caro per me. Sì, ci ho comprato qualcosa, ma è sempre stato un po' caro. Perché io compro anche roba per il gas e compro. Quello che c'è in via Fermi, dietro il Vigile del Fuoco, lì, quello che c'è scendendo vicino al bar. Non so se lo sai dov'è, tra l'angolo di via Canalis lì, poi sale. Lì in via Fermi. Sì, io sto parlando di carboni via Napoli, ha chiuso adesso, ha chiuso l'attività, col Covid ha chiuso, tanto non c'era più niente da fare, quello è grande, più grande di me, quindi ha dato la pensione. Ci vogliamo ogni tanto di da Sandrino via Napoli al bar, a prendere il caffè, però ha chiuso. Non me ne aveva dati lui, ma come se ti serve roba prendilo adesso perché sto chiudendo tutto. Infatti mi avevo cambiato lo scaldabagno che ce l'avevo a 50, ma ce l'avevo a 80. Ho preso tutta la rubinetteria, pompo i flessibili di scorta, insomma, roba che serviva. E mai ci siamo venduti quest'estate. No, diciamo, quasi tutto rifatto a nuovo, i sanitari sono nuovi, la vasca è nuova, quindi mi ha cambiato solo la rubinetteria e basta, e boh. Va bene che va bene, ci ho capito dove c'è quello, ma Provincio non ti direi che sia assai, che è abbastanza caro anche quello lì di via Canalisi, che via è quella? Non via Canalisi no, via Fermi. Perché chi c'è via Porchetto, chi c'è caro, ma con le via Fermi no, Tessoni sono, già non so se li conosce, già lo conosce, è lui, un tipo tozzo, c'ha una Panda 4x4 arancione c'ha. Sì, Gianluca, io. Io Alberto, la roba che accosta, col sistema adesso bricco, la gente va lì, compra scaldabagna, 80 euro, 60 euro, capito, tutto il cacco barato, cioè ci sono bagni completi, cazzo 300 euro, dai, box e doccia, tutto, piano doccia, vattere, comodo, lavandino, tutto 300 euro completo, addirittura ho visto 85 euro, bello, il lavandino col mobiletto bianco, capito? Cioè è chiaro che poi i negozi come Carbone e come tanti altri ne risentono perché la gente sta andando tutta lì a comprare, anche i grossi idraulici, insomma chi lavora nel settore, capito? No, io ci andavo spesso, ho comprato tutto il mondo del coso del water, tutto, me l'avevo cambiato lo stesso. Vabbè, noi siamo tutti ricchi, purtroppo. Sta venendo a mancare un po' tutto, caro Antonio. Sì, no, io compro lì perché sono installatore, i prezzi non me li fa come altri, cioè io compro sempre, sono sempre con parente in Chieve. Quindi anche se mi serve un pezzo idraulico non me lo fa pagare tanto. mi servo lì, compro tubo, compro tubo, compro regolatori per cucire di tutto, compro. Una volta, l'altra volta mi è servito uno di quei cosi per il lavandino, quel sifone che c'è sotto. Da altre parti costava anche da qui come costava di più. Da lui l'ho pagato in tutto con quell'affare che va nel muro, con quel gommino, l'ho pagato 3 euro, l'ho pagato. Cioè, a me. Quello sifonato in pratica. Sì, quello lì. Anche da qui come adesso internet costava 5 euro. Sì, e beh, quello costano poco, i sifoni dello scarico da bambino, quindi in pratica costano poco. Io ci ho spesso cambiato da poco, ma io ogni tanto quelli lì hanno bisogno toglierli, tanto si svitano, li devi pulire bene, capito? Devi pulire bene perché lì c'è di tutto e di più, lì ci va tutto lo scarico, poi si intasa, un casino, capito? Uia. Mamma mia, come tocca, perché di buoi, e domani sono pieno di impegni, mi vado ottimamente che faccio a Predanieta, all'8 devo spostarmi a Predanieta e devo risalire via Livorno, che arrivano dei pezzi dell'ufficio, poi alle 9 devo portare il cane, poi vado a Piazza Vecchia a fare la spesa, mamma mia, se trova niente mi paghi, no cra, sono quelli del coso cra, della bandita del bagno, ho cambiato, esistono anche quelli a tromboncino fatti in plastica, che sono i migliori secondo me, durano un sacco, no, hai capito, invece di quelli in ferro. Ah, capito, invece con la cannetta in ferro tu c'hai lo scarico direttamente a... Sì, ho capito, no, io al bagno c'ho la cannetta, nel coro c'ho la cannetta, tutto. Ma che le cambio quelle, ogni tanto vanno cambiate quelle lì, perché ci vuole preghiglia, ne sono molto fini, capito? Io sto lavorando, io sono un uomo a mio cognato, giusto per ammazzare il tempo, la mattina, però abbiamo venduto in Viale San Francesco, che c'erano gli uffici, la casa di Viale San Francesco, quindi gli uffici che sono stati via Livorno, in un altro magazzino di famiglia, non di famiglia, di mia moglie e mio cognato, ma di famiglia con la moglie e mio cognato, quindi abbastanza grande, tra poco vabbè l'ha fatto Davano, l'ho fatto io, però ci ho buttato per i chivi perché c'erano ancora i muratori che stanno facendo il bagno nuovo, a proposito di bagno, stanno facendo un sacco di cose, quindi sono sempre lì, vai prendi quello, vai prendi quell'altro, e così poi la metto, capito? Perciò spero di fermarmi più in fretta possibile. E domani mattina vi c'ho appuntamento a Predanieta, poi mi devo spostare lì via Livorno. E poi cazzioni, lunedì devo andare a Piazza dei Segni, io faccio la spesa frutta, verdura, tutte queste cose, formaggi, insomma tutto quello che serve lo faccio settimanalmente, ogni lunedì Piazza dei Segni, capito? Quindi devo andare per forza anche lì. E vabbè, impegni e ricacchio che comunque devi fare. Cappa, quando è travagliente invece andava a travagliare e si rifà di anni che si gozze. Infatti, quello adesso con la scusa che sono a casa, mia moglie da tutti questi incarichi a me. Però ti ripeto, io sono impegnato, mi impegno con l'azienda del mio cognato. Mi occupo dei cantieri che c'è lui, delle cose che c'è lui, dei sfruttamenti eccetera, quindi insomma ho deciso io di farlo, non è che mi ha obbligato, mi paga e quindi lo faccio. Però mi sto stancando, Antonio, non c'ho più molta libertà, mi riposo solo il sabato e la domenica e basta. Da domani d'ora, tutta la ghetta, andando e tornando, a destra e a sinistra, e vabbè. Facciamo anche quello, sistemo queste cose sue, poi a mezzogiorno muovo tutto, 11 e mezza, ma ho fatto le 10 e mi faccio la spesa. Ricca, se no io la compro lì perché c'è uno che porta la roba tutta la campagna sua, capito? L'aglio, la cipolla, la verdura, cioè questa lattuga che è la fine del mondo, c'è un orto favoloso lì a Chiaria. Fortissimo, veramente roba buona, lui c'ha pomodori, c'ha di tutto, quindi io mi faccio tutta la scorta per tutta la settimana, capito? Buonasera mia. Buonasera a te. Fai bene, se no quella vai, arriva a fine anno e dice guarda io non ve la posso più, e vedi di dare la somma, la vesticchia. Ciao Tony, non ce la fai più, ce ne ha due in casa di grazia, ho cazzo di Covid, quindi siccome c'è di famiglia, allora la mano io, così vi va, Antu, purtroppo è così, questa cosa ci ha messo un po' con la spada al muro a tutti, ha detto lì. E allora buonasera, ciao Claudio, ciao Antonio. Che io finito adesso in casa, però ovviamente perché abbasso qui, ecco, così non si sente la televisione, niente, tutto pulito, tutto quanto pronti domani per andare a lavorare, tutto qua, a lavorare, infatti ci tocca lavorare, vabbè, almeno mettiamo il tempo poi, se no poi stando a casa ti si girano i bibiristri. Avanti anche per i saluti a Tonino, poi io un altro passaggio e vado a cenare, sono già venuto meno 20 quasi, vai Anto. Kappa, saluto Tonino, buonasera. Io ho già mangiato, ho già fatto tutto, via. Io lo stesso, tutto pulito. Sì, come lavoro, giusto là, mi passo il tempo perché il mio lavoro comporta fare molti chilometri ogni giorno fuori. Alghero, Ziri, Bono, Perfugas, comunque. Porto Torre, domani sono a Porto Torre, vedi? Cambio. Ogni giorno mi passo la giornata, mi volo, la verità. Dalle 7.30 a 14.10 io volo. Cioè mi volo anche la settimana. Ho anche diciamo un collega che grazie a Dio prima no, eravamo dispari, adesso in 8, quindi siamo tutti accoppiati. E ti posso dire che sto veramente bene. Avanti Clara. Sì, ma anch'io così passavo la giornata, stesso orario. 7.30 a 14.10, soprattutto quando non era molto distante, ma io avevo tutta la zona bassa della Gallura, Androna, capitava vicino a Vignola come zona di controllo, però una volta che poi mollavo, staccavo, meno che non c'avevo rientro, c'erano lavori da seguire, da fare, allora era diverso, se no alle 2.10 timbravo a Sorso, 2.30 ero a casa, non c'è problema, stavo benissimo, la mattinata passava, tranquillo, in compagnia dei colleghi, le chiacchiere, le stanzate e via, prima non passa a Bittoni, e meno male mi sto così muovendo, il mio cognato, insomma, di famiglia, dove qualcosa mi impegna a fare, ma per carità, comunque io mi sto prendendo la respirazione, cazzo. Alle 5.30 aprivo gli occhi, finito. Muscio, non sapevo più che cosa fare. Ti inventi. Però alla fine quello che ti inventi poi finisce. Non è che. Vabbè. Vai Antonio. Cosa vuoi fare? È così, Ma diciamo che io lavoro durante la settimana, però ti dico una cosa, ci sta anche bene stare anche a casa, è la verità. Va bene il lavoro, va bene anche stare a casa. No, e a me non piace così, io quando esco a lavoro mi cambio in fretta, faccio quello che fare in casa e poi esco di muff, da una parte all'altra non sono mai fermo. In casa, stare in casa mi dice di fare molte cose che ho in in mente di fare, dovrebbe togliere in campagna, quindi non so mai con le mani ferme. E quindi niente, uno ci ha già zapporato un altro pezzo, perché i cagnolini sono riusciti a macciare un pezzo di plastica, ho dovuto tutto incenerare, adesso non sono più qua. E dove torni fuori? No, e dove c'ho praticamente le antenne, c'è quella lettera, c'è anche la rete in coso, in metallo, però ho messo un pezzo che era libero sotto, ho messo la rete in plastica, non avevo altro. Loro mi erano tutta quanta musicata e quando sono entrato oggi i cani erano da servitoria, meno male. Niente, è tutto incementato, cioè adesso non escono più. Ma lì Torino abbiamo dolce l'antenna, lì bisogna fare, ho solo il muretto, a Farattini quando con calma rifugi una un'intruffata, perché qui c'è più protetto, capito? Il tuo parrette c'è lì. Però non giustamente che non è casa tua, quindi non è che ti fa una voglia all'altro. E infatti, sto ancora aspettando che mi aggiusta la guarda. Vabbè, adesso vediamo. Mi ha detto oggi sia Maria che devi il giorno, mettere questi giorni, deve tutto rifare da capo, quello con l'altro, anche la casa sua. Ho detto, e io eliminando. Già troviamo un posto, sì, anzi traslocava, ma c'è l'altra, con tutta la roba che c'ho, no? Mi deve già la febbre, là. Mamma mia, ragazzi, traslocare da lì. Io già avevo un articolato, portate di tutta quella roba. Shish. Guarda, non ti invidio, lascia perdere. Io me ne ho fatto, io non ho fatto niente, la verità, però il trasloco di San Francesco, che tra l'altro è tre piani e non c'è manco ascensore, quindi non ti dico cosa abbiamo dovuto fare. Meno male che ha preso solo pubblico mio cognato e ha chiamato l'autoscala con la padana e si appoggiava alla finestra che c'è rifacciata e facevamo una rampa solo e si caricavano tre scatole così, capito, che era un ufficio, quindi era pieno di carta, di cartaccio, una cosa allucinante, infatti. Cioè, c'era un po' di bocco di goccia. Vabbè, però non ti invidio, guarda, fare un trasloco oggi è come suicidarsi, cazzo, per carità. Vai, Anto. Ma cosa devi fare un trasloco? Perché devo restaurare tutto e me mi deve spostare. E mica ma mi fate l'impianto idrico, elettrico, tutto nuovo da capo e sono di casa. E forse entrare niente e io sto travagliando. No, non è così che funziona. Niente, ho visto una bella cosa, oggi sono andato lì come che mi serviva qualcosa, già. Ho visto una bella salvatrice domani, quando adesso lavoro me la compro. Non ce l'hai quella che abbiamo saldato il tubo? No, non ce l'ho la saldatrice, è tutta altra attrice, ma quella non ce l'ho. Non è vero, dovevamo saldare quella pezza, non ce l'avevi. Ehi, ehi, ehi. E comprate, usci e va con un rotto. Anto, se tu vai in una ferramenta e chiedi cioè una cosa, magari ti dicono di no, se vai da Tonino ce l'ha. Cos'è cosa va di scatole di attrezzi, ma incomplete, di tutto e di più, bulloneria, di cacciaviti, cacciaviti no, più di carboni, più di lubricome, più sciugati. È pieno di attrezzatura, ma tantissima, tantissima attrezzatura, bella, nuova e ordinata. C'ha armadi pieni di attrezzatura, quindi immaginati tu per traslocare il casino che deve fare. Pure noi ne abbiamo un bel medico, quella roba lì. Basta scendere a casa, cioè lì alla da casa di mio padre. Capo, noi siamo pieni di roba, ma stessi, perché pure noi facciamo lavoro. La saldatrice già ce l'abbiamo. Ne avevamo tre. Ti sei dimenticato il mobile che avevo fatto io in casa, di attrezzatura. Non sto parlando solo quelli che ci sono in veranda, non sto parlando di quelli che ci sono dentro. Quelli che ci sono dentro